Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Oggi 12 settembre si apre dunque una nuova settimana di cronaca, di inchieste, di reportage su fatti italiani. Vi parla Daniele Biacchessi. La puntata odierna è interamente dedicata alla lotta all'evasione. Partiamo da alcune lodevoli iniziative di privati. Francesco Maesano racconta per noi quelle messe in campo dal periodico Donna Moderna. Sullo schermo passano delle diapositive di immagini al microscopio. C'è il parassita dei ruminanti, quello del legno, quello dei pesci, il parassita del cane e quello intestinale. E alla fine arriva il parassita della società, l'evasore fiscale. Chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione fiscale è tuo interesse. Segue l'invito a chiedere sempre lo scontrino o la ricevuta fiscale. Un invito firmato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia in questo spot in onda nei principali canali televisivi da qualche settimana. È l'Italia che si mobilita contro la crisi e si scopre nemica giurata dell'evasore. Ed è del 13 agosto scorso un articolo sulla Stampa di Torino a firma di colui che sta diventando rapidamente un autore cult, almeno per quella esigua porzione di lettori che non hanno ancora 40 anni, cioè Massimo Gramellini. Ecco, Gramellini pubblicava il suo Lamento del medio alto, questo era il titolo dell'articolo, all'indomani dell'annuncio del primo contributo di solidarietà, quello cioè che colpiva i redditi dai 90.000 euro in su. Giuro, scriveva, che d'ora in avanti non avrò più pietà. Chiederò scontrini a tutti su tutto e se mi diranno ma così dottore non posso più farle lo sconto, li andrò a denunciare. L'atteggiamento battagliero auspicato da Gramellini è stato ripreso dal settimanale Donna Moderna, che ha lanciato dal 1 settembre una campagna per dire basta all'evasione fiscale. E allora abbiamo chiamato la condirettrice del settimanale, Cipriana Dall'Orto, per farci raccontare di questa loro iniziativa. Dunque, in questo momento, perché naturalmente in questo momento di crisi mondiale e di difficoltà italiana a realizzare una manovra finanziaria, la nostra linea è che si debba andare a fondo contro l'evasione fiscale, quindi una campagna di civiltà, se vogliamo, no? Di equità, colpire finalmente a fondo questa evasione per risolvere i tre quarti dei problemi, quindi il momento deve essere per forza questo. Questa è anche l'occasione per dare una svolta etica fondamentale, non solo economica, cioè sembra che questa evasione non si riesca assolutamente a combattere, siamo un paese sotto gli occhi di tutti in questo momento, quindi una seria lotta all'evasione non soltanto porterebbe alle casse una quantità di soldi notevole, no? E quindi impedirebbe anche di colpire le classi meno abbienti e di imporre dei sacrifici a cittadini che per colpa degli evasori devono pagare di più le tasse, di più IVA e vedere appunto rincarata tutta la loro vita. Forse non sarebbe l'unica arma, però sicuramente è un'arma che dovrebbe essere usata con efficacia una volta per tutte e renderci un paese civile. Un paese dove si evade, c'è una così alta evasione di tasse, è un paese incivile. Chi sono gli evasori in questo paese? Gli evasori sono i grandi imprenditori, i grandi finanzieri, quelli che naturalmente riescono a fare così, ad aggirare diciamo i controlli e a depositare soldi all'estero e a non dichiarare tutto quello che guadagnano. E chi al bar non emette lo scontrino fiscale non è un evasore? Sì, ci sono c'è poi questa abitudine, devo dire, spiacevole, molto, molto diffusa, anche nella popolazione, diciamo, non da grande evasore, da grandi patrimoni, no? Dal barista che non ti dà lo scontrino, all'idraulico che ti fa il lavoro e vuole essere pagato in contanti, cioè c'è una grande evasione, voglio dire, i grandi soldi si prendono dai grandi evasori, e però c'è anche questa abitudine alla evasione quotidiana, dove siamo un po' tutti complici, nel senso che c'è chi la applica e chi la tollera, perché penso che la maggior parte di noi non abbia nemmeno l'energia ogni volta di dire prego lo scontrino e voglio la ricevuta, cioè tante volte siamo noi stessi complici di questa piccola evasione, che è una immoralità diffusa. E di fatto voi cosa vi aspettate insomma dalla vostra campagna? Che ritorno e soprattutto quali effetti sperate di raggiungere? Speriamo, intanto l'obiettivo è quello di dare alle nostre elettrici un'opinione, no? Prendere una posizione e far sì che le nostre elettrici sappiano come noi la pensiamo. Anticipando questa campagna, il 26 agosto Donna Moderna ha pubblicato sulla sua versione online un messaggio nel quale si poneva alcune domande, come ad esempio qual è il danno che gli italiani subiscono per colpa dell'evasione, o anche se recuperassimo l'evasione di quanto potremmo abbassare le aliquote fiscali, e l'IVA che il governo potrebbe aumentare è o no una tassa giusta, e se tutti pagassimo le tasse avremmo servizi migliori dallo Stato, chi è che evade di più, e si evade perché le tasse sono troppo alte o è solo una scusa, e come si può infine convincere la gente a pagare le tasse? Speriamo, naturalmente, non è che lo facciamo a scopo pedagogico, no? È un pezzo di informazione, così, però contiamo anche sul fatto che aderiscano in molti e che in molti si facciano sentire, cioè in qualche modo raccogliere un'opinione forte su questo tema e poi vedere come utilizzarla. Però secondo me basta anche soltanto il fatto di dire a chiare lettere che dobbiamo pagare meno e pagare tutti. Riteniamo che le nostre elettrici siano persone adulte, informate, attive, che vogliono sapere come stanno le cose, che spesso ci chiedono di prendere posizione su determinati temi civili, su determinati temi sociali. Noi abbiamo fatto molte campagne sociali, siamo sempre dalla parte dei deboli in tutte le sue forme, abbiamo fatto campagne contro la violenza sulle donne, campagne a favore dei bambini maltrattati. Questa è una campagna civile verso tutti i cittadini. Penso che sia gradito alle elettrici una posizione del genere. Quando tu spieghi che il 17% della ricchezza prodotta in Italia ogni anno sfugge al fisco, e dai un'informazione che è giusto che i cittadini abbiano. Anche perché se noi ogni giorno seguiamo i quotidiani, sono talmente tante le informazioni, i cambiamenti della manovra, e il mescolamento con le intercettazioni, che uno alla fine perde il filo. Quindi allora ci siamo centrati su questo tema, al di là della manovra che naturalmente dovrà agire anche per raccogliere velocemente dei soldi, dobbiamo farlo per forza, qua ne va della sorte del paese, e di questo penso che siamo tutti consapevoli, però all'interno di questo c'è una battaglia da fare che è insieme economica e morale, ed è per l'equità. Quindi, ecco, è questo che mi chiedo: perché questa battaglia morale e anche economica per l'equità in questo paese è spuntata fuori adesso, nel momento in cui veramente siamo con le spalle al muro, e allora ci accorgiamo che dobbiamo portare avanti questa battaglia economica e morale? Quello è il punto. Beh, viene fuori adesso perché adesso si sta parlando di nuovi sacrifici, no? Quindi la moralità viene soltanto con i nuovi sacrifici? No. Da parte nostra, voglio dire, l'atteggiamento di un costume più etico da parte di tutti c'è sempre stato. Cioè, sul nostro giornale più volte abbiamo, anche semplicemente facendo un servizio, spiegando come stanno le cose, siamo sempre stati dalla parte dell'equità, voglio dire, no? Uh-huh. Ci sembrava questo il momento, visto che tutti, dalle persone più istruite a quelle meno istruite, in questo momento si stanno chiedendo cosa sta succedendo e perché si dovranno pagare più tasse, si dovrà pagare più IVA. Questo è il momento in cui tutti parlano di questa cosa qua, e noi abbiamo ritenuto importante dare un'informazione precisa, spiegare che se tutti pagassero le tasse, l'erario riceverebbe ogni anno 120 miliardi in più, è giusto che la gente lo sappia, no? Ed è giusto che quindi ci sia anche un po' un'opinione collettiva, una pressione collettiva, perché questo problema si risolva. Queste cose poi giornalisticamente si fanno nel momento più acuto, certo. In cui tutti parlano di queste cose e vogliono capire di più e fare di più. Italia in Controluce, seconda edizione. Ricordo, siamo su Facebook, la pagina, il gruppo, siamo su Twitter, siamo anche sul nostro blog che trovate radio24.it e la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30, la pillola di Italia in Controluce legata ai temi di strettissima attualità.